Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il ricordo della mia infanzia era di una famiglia allargata, non allargata come si usa adesso, allargata ai nonni, ai consuoceri. Ricordo dei Natali bellissimi in cui c'erano tutte 20-25 persone. Forse i miei ricordi sono un po' alterati proprio perché sono ricordi. Quello però che mi impressiona è che oggi non si riescono quasi più neanche alle feste, neanche a vedere i figli. Sono tutti proiettati di corsa, chi deve partire. Era tanto bello essere così tutti assieme. Non ho capito perché adesso si è tutti soli. Era tanto bello, sì, abbiamo tutti i ricordi delle feste, tutti uniti sotto l'alberello, tutti uniti davanti al presepe, tutti uniti a scartare i regali, ma sono ricordi, se ci pensiamo bene, di noi bambini. Poi una volta cresciuti, questa ritualità di tenere insieme acceso il sacro fuoco della famiglia, perché è una necessità, è un dovere, è una tradizione, in fondo lo sentiamo sempre meno impellente in noi. Non vorrei far iniziare l'anno nuovo con funesti presagi, però mi piacerebbe che fosse affrontato in maniera sincera, spassionata, scevra e privata da ogni pregiudizio, da ogni situazione di mantenimento di equilibri necessari, il problema sull'esistenza, sulla necessità, sull'attualità del termine famiglia. Sentite, una signora, probabilmente a un'età molto vicina alla mia, dice: ma una volta era tanto bello stare assieme, perché adesso i figli non si vedono più? Io contrappongo la mia esperienza di amico, conoscente, frequentatore, di uomini e donne di un'età media che va dai 40-45 fino ai 55 anni, anche oltre, che si sentono sotto le feste, sono sentiti sotto queste feste, vessati dall'obbligo, dal dovere di soddisfare le generazioni anziane, rinuendosi a loro. Non ti fai vedere, perché non ti fai vedere? Perché giustamente è logico che per una consuetudine biologica gli anziani hanno bisogno di avere un contatto fisico con i più giovani, perché su di loro hanno tanto investito affettivamente, perché si sentono soli, perché non si rassegnano al fatto che le nuove generazioni prendano il volo e seguano il loro destino, perché sono ansiosi, per un'infinità di altre ragioni. Tutto questo in genere un senso comune, diffuso, che tutti noi coviamo e coltiviamo, che non assolutamente vogliamo confessare, che è la radice probabilmente di tutto quello che oggi noi chiamiamo famiglia. Io lo individuo nel senso di colpa. Ci sentiamo sempre in colpa verso qualcosa, verso qualcuno, e quindi teniamo insieme un concetto che in realtà non rappresenta più nulla, perlomeno nell'organizzazione sociale, economica, razionale dei nostri spazi sociali. Il termine famiglia è un significato antico, legato a convinzioni rispettabilissime tipo ideologico, di tipo religioso, di tipo etico, ma non rispondente a una necessità effettiva. Carosello, secondo me serviva anche a cementare le famiglie, perché allora all'epoca c'era una televisione sola, non due, tre, quattro televisioni come succede ora, per cui tutto veniva guardato insieme, la famiglia unita, così come si guardava Rischiatutto, come si guardava Sanremo, Canzonissima. Noi viviamo nella nostra equazione specifica nazionale territoriale nell'idea che una volta fosse meglio, perché c'era Carosello era lo spartiacque, le famiglie si dividevano nella loro naturale gerarchia generazionale quando c'era Carosello, che i bambini andavano a letto e i grandi rimanevano alzati. E sembra, per nostra ipocrisia, per nostro senso di colpa insanabile, che proprio perché non c'è più Carosello la famiglia non ha più questa regolare scansione. Erano i tempi in cui la famiglia non è un albergo, la casa non è un albergo, e quindi c'era la necessità comunque delle liturgiche riunioni familiari. Quando per una necessità di transumanza generazionale questo non è potuto più avvenire all'interno dello stesso tetto, sotto lo stesso tetto, rientra, subentra il senso di colpa, e non ti fai più vedere, è la famiglia. Ma ha ancora senso oggi parlare della famiglia? In che termini parliamo di famiglia? Perché ancora le persone sentono che debbano mettere su famiglia? C'è una necessità biologica di fare dei figli, una vocazione profonda e anche razionale di lasciare una propria progenie, ma l'organizzazione migliore, il miglior contratto possibile per fare questo con un'altra persona, è proprio quello che noi abbiamo sempre inteso famiglia, fatto di nonni lacrimosi e di mamme sospiranti, di padri autoritari, di fratelli con cui si fa coltellate naturalmente appena c'è da spartire quattro soldi. Beh, è proprio questo? Voi lo pensate? Ne siete convinti? Rifletteteci, perché c'è un anno davanti per poter magari contribuire a portare qualche razionale soluzione a questo mio dilemma. Sfumata sì, fino a un certo punto, però senza la famiglia stiamo assistendo a dei cambi epocali societari, per parlare come il precedente, dove la società, o la società per azione, la società di fatto, ma senza la famiglia siamo perduti. Basta guardare i risultati attuali del comportamento degli italiani per comprenderlo. Manca una famiglia alle spalle. Ma cos'è la famiglia? La famiglia è un'organizzazione sociale, un ammortizzatore sociale, un'organizzazione di comodo, un salvagente, un rifugio, un scudo verso le intemperie della società, un sollievo economico in un momento di crisi, una maniera per ottimizzare le risorse di alcune persone che magari si pagano meglio un affitto in due, risolvono meglio alcuni loro problemi aiutandosi l'un l'altro, possono avere una società di mutuo soccorso per affrontare meglio le intemperie del quotidiano. Ma questo è necessario chiamarlo famiglia? Non potrebbe essere una società, un'organizzazione, un club, una libera scelta? Perché questo deve essere vincolato per un patto a vita? E perché deve esserci sempre il triangolo con l'occhio che esce fuori e punta il dito indice contro coloro che non pensano che questo legame debba essere indissolubile, sacralizzato? Lecitissimo pensarlo per chi questo pensa. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Gassani è stato nostra guida e nostro consigliere in tante puntate. L'abbiamo richiamato in questa mattinata dedicata proprio all'analisi del concetto famiglia, per avere da lui un confortato parere. È un presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, si occupa di matrimoni, mette il dito nelle piaghe più dolorose delle famiglie italiane, ha scritto anche un libro come è un bestseller, I perplessi sposi, a Liberti Editore. Gianettore, sono troppo pessimista io in questa visione di inizio d'anno sulla famiglia come qualcosa da appendere a un chiodo, come fosse un bel quadro, ma da rivedere completamente nella sua struttura. Ma la famiglia italiana è profondamente cambiata. Ovviamente non credo che il concetto di famiglia sia stato spazzato dalla storia, neanche recente, ma noto profondi cambiamenti. Non è più il matrimonio l'unica strada per fare famiglia. Negli ultimi anni si è registrato un'impennata delle coppie di fatto. Le coppie di fatto hanno una struttura familiare molto simile a quella degli sposati. Mettono al mondo figli, devono pagare mutui ventennali, hanno case, hanno problematiche tipiche di coppia. Probabilmente gli italiani non credono più nel matrimonio in quanto sacramento. Però scusa, vediamo un attimo. Tu hai detto che statisticamente i tempi di tenuta di una coppia sono maggiori al di fuori del vincolo sacro del matrimonio piuttosto che quelli che sono ordinati sposi, regolarmente sposati. Sì, stanno infatti più assieme, stanno meglio assieme. Il matrimonio non è una garanzia di tenuta nella maniera più assoluta, anzi, considerando che oggi con una separazione consensuale si può dire fine a un matrimonio in 5 minuti, è evidente che si tratta di una scelta convenzionale, ma non è certamente la garanzia di una tenuta. Gli italiani sono cambiati e gli italiani stanno andando molto più veloce rispetto al legislatore. L'asticella culturale del nostro paese spesso non coincide con le scelte legislative, per cui gli italiani sono culturalmente identici ai francesi, agli inglesi e ai tedeschi, ma hanno una legge completamente diversa che non li tutela. Consideriamo che in Italia nascono figli fuori dal matrimonio nella stessa misura in cui nascono in Francia. Quindi gli italiani sono europei, è il nostro diritto che è un binario morto, che non rispetta assolutamente il nuovo comune sentire. Nel nostro paese il matrimonio sta scomparendo, e lo dicono i dati statistici dell'Istat. L'Istat dice che nel 1972 c'erano 430.000 matrimoni. Nel 2012 ce ne sono stati 208.000, e se non ci fossero le regioni meridionali, che sono la roccaforte del matrimonio, probabilmente in Italia il matrimonio... Ecco, dove ci si sposa in Italia? Ma soprattutto in Campania e Sicilia sono sicuramente le regioni in cui ci si sposa di più, in cui c'era quasi un obbligo istituzionale. Le madri si strappano il cuore sanguinante se i figli e le figlie non si sposano, e poi c'è anche una questione patrimoniale. In fondo è una maniera, esiste una tradizione che il matrimonio bisogna portare la busta con i soldi, una maniera, diciamo, per avere un piccolo gruzzoletto per iniziare, anche se si spende molto poi per sposarsi. Beh, indubbiamente ci sono addirittura delle cerimonie che per pagarle poi bisogna fare mutui di 50 anni. Sì, facciamo una trasmissione l'anno scorso, una prima ragione di mutuo e di insolvibilità verso il credito, quella di dover fare delle cerimonie, matrimoni, battesimi, cresime, quindi l'obbligo sociale ti impone di fare un matrimonio che tutti devono vedere, quindi devono essere tutti contenti. Diciamo che nel sud, dove insomma la religione cattolica ha anche una maggiore incidenza, indubbiamente il matrimonio resta comunque un'istituzione fortissima. Nel centro-nord le cose cambiano radicalmente, in alcune città addirittura negli ultimi anni le coppie di fatto superano come numero le coppie degli sposati. Quindi ciò non significa criminalizzare il matrimonio, ma significa però prendere atto di un cambiamento. Quando la famiglia però era unita, la famiglia italiana produceva reddito, era una forza economica. Si può essere d'accordo col matrimonio o con la coppia di fatto, però funzionava, l'organizzazione familiare funzionava perfettamente. Anche in campi, diciamo, nella piccola industria, nell'artigianato, l'imprenditoria. L'impresa familiare, anche a livello di imprenditoria piccola, gli italiani sono stati i più grandi risparmiatori del mondo fino a quando il matrimonio ha retto. Quindi noi abbiamo costruito, diciamo, il nostro boom economico anche sul matrimonio. Fatto che le famiglie si sposavano e lavoravano tutti. Si portavano 3-4 stipendi, non si avevano 4 piccole case, se ne aveva una sola, non si avevano 4 bollette della luce, ce n'era una sola, si metteva insieme in un salvadanaio il denaro per acquistare un pezzo di terra o per acquistare l'autovettura della famiglia. Si era potenti perché si mettevano insieme le forze. Quando gli italiani hanno cominciato a vivere da single, a vivere nella monolocale, a andare al supermercato a comprare la monoporzione, probabilmente c'è stato un impoverimento, ma su questo poi certo, è un altro discorso. Apparentemente si moltiplicavano i consumi, ma in realtà diminuiva il grande serbatoio del risparmio. Sì, indubbiamente. Gli italiani sono stati, insieme ai giapponesi, grandi risparmiatori. Da quando però le famiglie si sono disgregate, le coppie hanno dovuto poi trovare due case, le spese vive per andare avanti, è evidente che ci si è impoveriti. Quindi la famiglia è sempre stata intesa come una risorsa sociale più che un luogo di affetti. Per cui fondamentalmente quando si trattava di lavorare la terra e si era 10 persone in una casa, la terra si lavorava. Nel momento in cui ognuno poi è andato per i fatti suoi, la terra è stata abbandonata. Quindi la famiglia è stata importante per questo. Poi le questioni morali, religiose riguardano altre questioni. Smitizziamo dei fatti, che la famiglia sia il luogo eccelso dove si celebra l'amore, questo è vero fino a un certo punto, per qualcuno può essere stato, ma qualcuno è, la speranza che sia rimane in peritura, però non è esattamente così. Che sia un luogo in cui ci sia un'unione in qualche maniera benedetta da Dio e sacralizzata è un ottimo concetto per chi ha questa visione della vita. E lo trovo ammirevole, lo trovo senz'altro condivisibile per chi vuole questo tipo di impegno, perché è un impegno al di là, contro ogni secolarizzazione evidente alla società, che ancora mantiene questo impegno, purché sia sincero, purché sia condiviso, purché realmente sia un impegno, sì, perché sposarsi per fare la cerimonia, per avere il vestito della sposa, per avere tanti invitati, per avere il prete che benedice, per avere l'incenso, per avere i regali, via dicendo, e poi comportarsi nella vita matrimoniale esattamente come si comporterebbe qualsiasi persona inveterata, laica e addirittura anche peggio, non ha nessun senso. Quindi il matrimonio religioso dovrebbe prescrivere poi una vita in quella direzione, se no non avrebbe senso. Assolutamente. Ovviamente il codice ha previsto delle regole. E quando furono state date? Con il famoso concordato. Esatto. Che è stata la grande fregatura, diciamo la verità, rispetto a quello che stiamo parlando oggi. In parte sì, ma anche il codice civile, al di là del concordato, ha stabilito le regole. La famiglia è una famiglia nel momento in cui rispetta le regole. Non sempre le regole sono state rispettate, nel senso che in alcune zone d'Italia soprattutto il patriarcato ha spazzato via il codice civile, per cui il padre padrone poteva disporre della forza lavoro dei figli, poteva mandarli a lavorare gratuitamente, non c'erano alcune garanzie, le scelte di vita delle mogli spesso erano subordinate alle volontà dei mariti, quindi era un diritto di famiglia molto molto arbitrario, anche nelle successioni spesso, questo è il motivo delle grandi litigi, sì, nelle famiglie patriarcali c'erano sempre i privilegi dati alle forze lavoro più efficienti o più soprattutto ai figli maschi. Certo, i figli maschi, poi figlie femmine si cercava di sistemarle in qualche altra maniera. Esatto, però bisogna anche riconoscere che il sistema famiglia italiano è stato un po' invidiato da tutti, perché è un paese che aveva perso la guerra, che non aveva più risorse, è riemerso prepotentemente attraverso la famiglia. Quindi che poi fosse una famiglia tradizionale, cattolica, o una famiglia diversa, laica, magari non sposata in chiesa, conta poco. Comunque dobbiamo dire allora che una gratitudine all'istituzione bisogna averla. Grazie a questa istituzione noi siamo risorti da una situazione difficilissima, drammatica. Abbiamo creato la più grande crescita economica, il grande boom che possa esserci stato nella storia dell'Europa dal dopoguerra agli anni che poi abbiamo cominciato anche noi a avere dei problemi. Assolutamente sì. Siamo stati una superpotenza per alcuni anni, perché in Italia non c'erano le grandi industrie, c'erano piccole industrie, piccole imprese, tutte familiari. Ancora oggi le imprese che riescono a tirare avanti sono le imprese fondate sulla famiglia. Pensare di avere 10 dipendenti, pagare gli stipendi, i contributi e quant'altro significa fallire. Quindi oggi ancora la famiglia unita, almeno quella che ha un unico obiettivo anche di interesse, è quella che riesce ad andare avanti. Ti faccio un esempio: noi siamo occupati in una puntata qualche tempo fa, il cosiddetto Bangla Tour è una scellerata azione di teppismo che viene svolta in alcune città italiane, dove vanno alcuni ragazzetti scapestrati, ma non sempre per loro sola volontà criminale, a gonfiare di botte i bengalesi, i cittadini del Bangladesh, che hanno negozi di alimentari, frutterie. Il modello economico di questi negozi e di queste organizzazioni è altamente concorrenziale degli altri negozi dei quartieri delle zone, soprattutto delle grandi diventi. Perché? Perché lì lavora tutta la famiglia. Inizia il padre la mattina, poi va la madre e stanno aperti fino a mezzanotte. Quindi il modello che ha fatto la nostra fortuna è quello che sta ricreando un pericoloso, per chi ha una mentalità molto ottusa, modello nuovo di organizzazione economica e sociale, e ha portato agli immigrati. Il Bangla Tour viene fatto per disprezzo, per razzismo, anche perché quello è un modello che dà fastidio. Noi ormai siamo abituati a tenere gli esercizi aperti nell'orario canonico, ad avere dipendenti, a gestire in maniera drammatica la crisi. Loro non si preoccupano, arrivano in 20 e mettono tutta la famiglia a lavorare dalla mattina alla sera. Beh, come abbiamo fatto noi italiani in America. Noi in America abbiamo spazzato via la concorrenza perché i nostri negozi, i nostri esercizi commerciali erano formati dai familiari di veri e propri clan, per cui nulla di nuovo per quanto riguarda gli italiani. E ancora oggi gli esercizi commerciali che funzionano soprattutto a Roma e a Milano sono fondamentalmente esercizi commerciali che poggiano molto sui rapporti familiari. Anche perché si abbatte il problema della ricerca del lavoro, i ragazzi lavorano in una piccola impresa familiare. Certo, ci si accontenta di quello che passa al convento, non si fanno scelte sfidanti, originali, però di fronte alla sopravvivenza, di fronte alla necessità di rimanere insieme, questo... C'è il comune interesse. Victor, tua madre ha un amante. Eh? Ha deciso di lasciarmi per andare via con lui. Eh? A 50 anni se la fa con uno di 10 anni più giovane di lei. Esatto. E papà resta da solo. E chi è? Il signor Boran. Sposato, 2 figli. Ma che figlio di puttana. Che ce lo dici a fare? Ma sei impazzita per caso? E dove vuoi andare? Papà, io ho problemi enormi. Marie mi ha lasciato, ho perso il lavoro, sto malissimo. Stai a sentire, Victor, finiscila. Ascoltami bene. Dei tuoi problemi di lavoro, dei tuoi problemi con tua moglie, dei tuoi problemi di soldi, dei tuoi problemi in generale in particolare, a me tua madre, non me ne frega proprio un bel niente di niente. Ti è chiaro il concetto? Questo è un film francese, La Crisi, un film del 92. È una storia drammatica in cui un brillante avvocato di successo, un giorno in cui viene licenziato, scopre che anche la moglie si è andata con un altro uomo. E tutto è nato sul fatto di questa famiglia che gradualmente si scardina e ci si rende conto che ciò che la teneva assieme non era nulla di eterno, nulla di sacro, nulla di imperituro. Per 30 anni vi ho lavati, nutriti, coricati, alzati, consolati, tutti e tre. Vi ho stirato le camicie, lavato le mutande, seguito negli studi. Mi sono rovinata il fegato, non ho vissuto che per voi, attraverso voi. Ho ascoltato tutte le vostre storie, le angosce, i problemi, senza mai rompervi le palle con i miei. Stai per distruggere un'intera famiglia, no? Anzi, due intere famiglie per una volgare storia di letto. Ah, d'accordo. Quando si tratta delle tue storie di letto è amore, quando si tratta delle mie è volgare, non è così? Sì, è volgare, è schifoso. Ma dai, mamma, è un capriccio, 10 anni meno di te, come fa a durare? Mio caro, durerà quello che durerà, per me è indifferente. Se pure dovesse durare un'ora sola, lo rifarei ugualmente. In ogni caso non mi risulta che la durata faccia bene alle storie d'amore. Non è una storia d'amore, a te interessa solo farti scopare. Ma certo che mi interessa farmi scopare. Gianetto Regassani, quante volte ti è successo nella tua avventura professionale una situazione del genere? Una donna che ha dato tutta la vita alla famiglia, al matrimonio, un giorno dice basta, mi riapproprio della mia necessità di essere donna. I figli la giudicano, il marito la giudica. Come ti permetti? Tu donna, tu sei mamma, devi continuare a stirare per tutta la vita. Quante donne, partiamo da questo tipo di suggestione, non accettano più questo loro destino a vita, di essere una sorta di monache, sacerdotesse dell'istituzione matrimoniale, e si risvegliano come lecito, come giusto, anche in età non proprio giovanissima, e riscoprono il mondo. Ma lo vedo tutti i giorni, negli studi, nei tribunali, ci sono queste storie. Questa non è una storia nuova, forse è nuova perché il film è del 92, oggi è una storia di tutti i giorni. Le separazioni e i divorzi riguardano i cinquantenni, la media nazionale è sui 45 anni, ma non mancano casi di separazioni e divorzi fatti a 60-70, per queste ragioni, per la rivincita. C'è un'ansia di rivincita da parte delle donne, anche da parte degli uomini, perché questa volontà di riprendersi in mano la propria vita, ormai assuefatta da anni, da riti sempre uguali. Anche perché c'è una biologica giovinezza molto prolungata, un uomo a 60 anni non è un vecchio, non è roba da buttare. La terza età non è più quella dei 60, è quella degli 80. E non dimentichiamo che il 20% delle separazioni e divorzi riguardano persone che hanno superato addirittura i 70 anni. Sempre di più assistiamo a queste cose. Devo anche dire che le donne hanno più coraggio, cioè mentre gli uomini cercano di mantenere la doppia vita, la donna tengono i piedi in due staffe. Esatto, la donna riesce a uscire allo scoperto e dire basta. Tanto è vero che poi nel 65% dei casi la donna dire basta e a avviare la procedura di separazione. Melog, cronache meridiane. Di fatto ho l'impressione che ci sia troppo digionismo da parte delle persone mature, trentenni, quarantenni, che si avvicinano troppo intellettualmente tra PlayStation e baggianate varie ai loro bambini, e perdono di autorevolezza a volte nel momento in cui si verifica la crisi, nel momento in cui il giovane, il bambino cerca una direttiva. A volte ci sono contatti tra quarantenni mentali e ragazzini di 8, 10, 12 anni, forse c'è una non voglia di prendersi responsabilità. I nostri genitori ci sembravano vecchi nelle foto quando avevano la nostra stessa età, ma probabilmente c'era ancora una vicinanza tra un mondo maturo e le proprie responsabilità e quello dei bambini che venivano aiutati a crescere. Ci troveremo forse presto con i ragazzi che ci soppianteranno e avremo perso una fase generazionale in cui dovevamo dare il nostro contributo. Non è questa mattina vogliamo demolire nessuna certezza, ma ci prendiamo la responsabilità di risvegliare l'attenzione su quello che è un luogo comune che sembra non essere possibile, incontrovertibile, indubitabile, se non attraverso delle azioni veementi, delle dissacrazioni violente. No, oggi cerchiamo pezzo per pezzo di capire cosa ci sia dietro a questo concetto astratto di famiglia, che come abbiamo detto poco fa con l'avvocato Gianetto Regassani, che è il presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, quindi conosce bene la materia, la famiglia ha avuto un senso profondo, non astratto, non legato a pregiudizi, a credenze religiose, a sufficientemente elaborati concetti di adesione etica dei principi sacri. No, ha avuto un senso concreto, utile, è stata l'ossatura della società su cui noi abbiamo fondato la nostra ricostruzione. Sì, però dal 1945 fino agli anni 70, a metà degli anni 70, quando è cominciato un altro tipo di organizzazione. Poi qualcosa è cambiato. Una delle cose che è cambiato anche, naturalmente, col cambiare, il mutare della società, con i modelli venendo fuori, anche con l'irruzione continua di scossoni mentali in quelli che sembravano degli schemi imperituri da secoli, si è cambiato anche un po' il modello dell'esito della famiglia, del rapporto tra figli e genitori, del normale passaggio delle esperienze. Uno dei problemi è che molte volte i genitori non sono adeguati a gestire i figli. Le famiglie esplodono anche nella gestione dei figli. I figli sembrano un gadget irrinunciabile, l'orologio biologico delle signore a un certo punto scatta, le mamme pretendono ai loro figli bamboccioni che gli hanno i nipotini, li fanno tutti contenti, riescono a fare questi figli, a volte anche con innumerevoli tentativi, difficoltà e via dicendo, e poi dopo si trovano qualcosa che difficilmente riescono a gestire perché non hanno più gli strumenti. E anche questo, Gianetto, è uno dei motivi della dissoluzione graduale della famiglia. Sì, perché oggi manca lo svezzamento dei figli. La famiglia che lavorava, la famiglia unita nelle campagne, nelle fabbriche, nelle industrie, nell'artigianato, era una famiglia che svezzava il ragazzo a 14 anni. Oggi trovi un trentenne o un 35enne che si rivolge all'avvocato per fare causa ai propri genitori per avere la paghetta. Ma ti è capitato questo? Sì, capita tutti i giorni, è un fenomeno molto triste. Cioè, minorenni fanno causa ai genitori, chi li consiglia? No, sono figli maggiorenni, maggiorenni. 35enni, 40enni, che pretendono di essere ancora mantenuti perché la giurisprudenza non ha stabilito un limite oltre il quale non si può più chiedere il mantenimento. Dimmelo bene, mio figlio 18enne potrebbe farmi causa se io non lo mantengo. Certo, ma anche quando aveva 30 anni. Io lo minaccio tutti i giorni, te ne vai di casa, se non studi non posso mandarlo via di casa. Potresti mandarlo via di casa, ma devi trovargli un alloggio, devi mantenerlo. Io sono obbligato, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi stai attento quando fai troppe minacce. Cioè, è a vuoto la mia unica residua minaccia verso il mio figlio maggiore. Non la giurisprudenza ormai equipara i figli maggiorenni a quelli minorenni e non ci sono limiti di età. Ma scusa, non è giusto questo, uno non diventa mai adulto. Uno finché ha un filo di dipendenza giuridica dai genitori non è mai adulto. Ma io sono fondamentalmente d'accordo. Non può essere a senso unico, cioè non può essere lui come maggiorenne, può prendere e andare dove vuole, io non posso dire nulla, può mantenere giustamente la sua privatezza negli atti, non posso guardargli nel diario, non posso guardargli nel telefonino, non posso fare nulla, giusto, perché è maggiorenne. Ma lui, però, io sono obbligato a mantenerlo finché vivo. Sì, fino a quando lui non raggiunge una indipendenza economica. Allora, scopro una realtà che mi sconvolge questa mattina. Beh, purtroppo è questa. E quindi quando si parla di una famiglia che... Per me la decadenza della famiglia non è data dalle separazioni e divorzi, è data dal fatto che oggi abbiamo una società di ragazzi che non si sono riusciti a realizzare, che sono fondamentalmente, tra virgolette, mammoni, un termine orrendo, ma che rende bene l'idea. Sì, anche per colpa delle mamme, dei padri, delle famiglie. Sì. Io credo che da quando è stata defenestrata la figura del padre, dal 75 in poi, indubbiamente ci siamo liberati di un peso che era il padre padrone, però poi ci siamo trovati la madre padrona, che non è che abbia fatto... La madre vampiro, sì. Che non è che abbia fatto un lavoro migliore, perché fondamentalmente nelle separazioni e divorzi spesso emerge questo legame quasi incestuoso del marito, dell'uomo con la madre. Che in qualche modo ha devastato il rapporto. Ma perché il paragone tra la madre e la moglie in Italia si fa tutti i giorni. Questo è anche materia, diciamo, di dibattimento in tribunale quando si va a discutere di un matrimonio fallito. Il fatto che io lo raccolgo dalle testimonianze di tante amiche mie, che ci sono questi uomini che portano sempre appresso la figura materna come contrapposizione, sembra quasi una barzelletta, soggetto da film, da commedia. Lo scriviamo negli atti tutti i giorni, io credo che le madri italiane abbiano le stesse responsabilità dei padri padroni, dobbiamo ammetterlo, perché quello che sta succedendo nel nostro paese è drammatico, è letteralmente drammatico. Fammi qualche esempio. Così. Ma l'esempio di figli che vogliono, preferiscono vivere sotto il tetto dei genitori, no, anche quando hanno un lavoro, hanno un rapporto, un legame con la madre che arriva al patologico. Spesso siamo costretti nei processi a intervenire, a dimostrare con prove testimoniali, con una serie di altri mezzi di prova, che il rapporto, il legame tra quell'uomo di 30 anni e la madre non era un rapporto assolutamente normale, sano, tanto da incidere profondamente nel menage familiare. Il fenomeno della madre padrona, di questi figli che subiscono la madre mentre hanno completamente distrutto la figura paterna, è sotto gli occhi di tutti. Ma io sento ancora dire a persone mie coetanee: Devo fare solamente questa cosa, se no mia madre muore. Ma come muore tua madre? No, non posso. Devo andare per forza al paesello per le feste e non posso dire no a mia madre, se no muore. Ma ancora c'è questo ricatto che le madri muoiono di crepa cuore per il figlio che non segue il loro volere. Perché c'è un ricatto delle madri e devo dire che le mogli... che il senso di colpa è alla base di tutto. Assolutamente, ma infatti povere mogli di oggi, povere ragazze di oggi che sono costrette a stare con questi imbecilli, i quali non riescono a essere assolutamente autonomi per colpa di queste arpie in gonnella di 60-70 anni. Io credo che da questo bisogna partire. Per salvare gli italiani bisogna liberarli da questo tipo di madri e recuperare un minimo di paternità, almeno quel minimo che può essere un po', non dico l'amico che non mi piace, ma quel consiglio, quel del padre che oggi non c'è più, perché è un'altra responsabilità che i padri sono fuggiti, sono scappati, non ci sono più, e quelli che vogliono farlo probabilmente non riescono a farlo. È quello che dice lo psichiatra Massimo Recalcati, psicanalista Massimo Recalcati, nel suo libro dedicato appunto alla figura di Telemaco, che c'è questo Telemaco che guarda sempre l'orizzonte aspettando che arrivi il padre a vendicare comunque l'usurpazione della casa paterna, ma questi padri, questi Ulisse viaggiatori, arrivano sempre più raramente. Adesso penso, più che sentire, che la famiglia in sé che è insopportabile come istituzione. Questo lo dico francamente, lo penso. E perché è insopportabile? Per una ragione molto semplice che si può dire in due parole. Gli amici, le mogli, le amanti si scelgono e i parenti no. In più la famiglia è un nucleo sociale che dovrebbe essere la base della società. Al tempo stesso però è il vaso di tutte le passioni più scatenate, l'inizio della sessualità, eccetera, eccetera, eccetera, donde tabù tremendi, eccetera. Il tabù dell'incesto dà soltanto una pallida idea di come sia contraddittoria la famiglia, perché per formarla si è dovuto proibire ciò che è realmente naturale, cioè il fatto di desiderare la prima donna che si vede. Questa donna, la prima donna che si vede è la madre. Questo è Alberto Moravia, oggi è caduto in disuso nella centralità degli stimoli culturali, però fino alla sua azione vitale, diciamo, i primi anni Ottanta, era considerato una sorta di pensiero ispiratore e aveva questo suo compagno scatenato, anche se molto ipotetica, molto letteraria la visione, che era l'incontrollabile suo appendice che doveva fremere di amore ogni volta, e dice questo non accadeva perché c'era il grande vincolo del peso della famiglia. Io non credo che la famiglia sia stata mai un limite al libertinaggio, non credo sia questo il problema. Si tende in una lettura molto clericale a dire al di fuori della famiglia esiste il peccato, la dissoluzione, la colpa. Anzi, io credo che il maggior stimolo al libertinaggio è stata proprio la famiglia compatta. È tutt'altra cosa, è tutt'altra storia. Quanto ha a che fare, diciamo, la sessualità all'interno della disgregazione familiare e dell'ipocrisia attaccata alla famiglia? Sempre nella tua esperienza, sempre da atti pratici. Ma la famiglia ha reso lecito qualsiasi cosa, e quindi anche la sessualità. Tutto ciò che avveniva al di fuori della famiglia doveva essere sanzionato pesantemente. Tanto è vero che avevamo il delitto d'onore nel nostro paese. Una donna sposata, trovata in flagranza di rapporto sessuale con un altro uomo, poteva essere uccisa in nome del delitto d'onore. Fino a 1981, fino a ieri, io stavo all'università, iniziavo il mio percorso di giurista e avevo un testo che parlava della possibilità di sopprimere un coniuge colto con le mani nella marmellata. Pensiamo negli anni Ottanta, avevo fidanzato, avrei potuto ucciderle in senso bisogna essere legati in matrimonio. E quindi il delitto d'onore, e quindi qualsiasi attività sessuale al di fuori di quelle che hanno le regole della famiglia erano considerate appunto addirittura motivo di omicidio. Non dimentichiamo il film Divorzio all'italiana, no? da parte delle donne, soprattutto nei confronti della donna. Perché poi, in effetti, fondamentalmente l'onore dell'uomo italiano era legato soprattutto alla onestà della donna. Ma anche è stato represso con pene sanzionatorie, con l'arresto. Si andava in galera. L'adultera Fausto veniva arrestata. Coppi, la dama bianca fu arrestata. Chiaramente altri reati per fortuna abrogati, ma fondamentalmente il codice ha abrogato tanti reati, ma il delitto d'onore è rimasto ancora nella testa di molti italiani, perché altrimenti non spiegheremo il femminicidio e situazioni familiari raccapriccianti. Quindi riemerge questo fatto che in realtà il matrimonio sia una sorta di tappo alla lussuria. Dentro il matrimonio comunque tutte le femmine devono stare tranquille e dedicarsi soltanto a un uomo, e tutti gli uomini possono comunque fare le loro cose, ma in un ambito di controllo sociale, per cui non si dia scandalo. Ma diciamo che l'infedeltà del maschio, dell'uomo, almeno fino a qualche anno fa, era considerata con meno, meno sfavore. Oggi l'infedeltà coniugale è sotto gli occhi di tutti, e uomini e donne da questo punto di vista si somigliano molto. Anche l'elettronica e l'informatica agisce molto in questo caso. I social network stanno sfasciando i matrimoni. Diciamo che ormai il 30% delle infedeltà coniugali si consuma attraverso Facebook, Twitter o altri social network, per cui indubbiamente poi le donne si sono scatenate. Se prima l'infedeltà coniugale era rara, oggi possiamo testimoniare a livello di processi in tribunale, beh, insomma, che più o meno uomini e donne si somigliano anche da quel punto di vista. Quindi c'è un cambiamento dei costumi fortissimo da questo punto di vista. Ecco, adesso ci fermiamo ancora una volta per una pausa. È molto interessante però l'argomento che ha messo Gassani nel piatto. Oggi le sollecitazioni sono tante. Oggi ogni essere umano si trova al centro di una multipla macchina di sollecitazione dei desideri e delle ansie e dei fremiti più intimi, e quindi resistere è molto più difficile. Ragione in più per dire che il matrimonio rimane un'istituzione ancora molto formale e molto naturalmente poco attuabile anche di fronte alle più ferree volontà. Melog, cronache meridiane. Io ho un marito e ho 4 figli, 2 maschi, 2 femmine e 2 maschi. Per me il modello ideale da prendere per esempio è un modello di famiglia che funziona autonomamente, ossia a prescindere dai propri genitori di origine e suoceri che siano. La famiglia si costruisce, la famiglia non è quella della pubblicità che improvvisamente ti compare un mulino bianco con la famigliola riunita davanti alla colazione. E chi non raggiunge quell'obiettivo non ha una famiglia. Non è che uno si mette insieme a una persona con cui sta bene, che ama, ci fa dei figli e improvvisamente eccola là la famiglia. La famiglia è qualcosa che si costruisce con il sudore, la fatica, l'impegno e il sacrificio. Ciao. Certo, però l'impegno, il sudore, il sacrificio, perché? In vista di cosa? Chi ti obbliga? Dove sta scritto? Quale legge lo prescrive? Certo, ci sono i figli, è giusto che uno abbia la coscienza di un avvenire sereno, di tutte le necessità che hanno i figli per crescere in maniera serena. Siamo convinti che la famiglia, verminaio di ogni tensione, di ogni ipocrisia, di ogni violenza, come la conosce l'avvocato Gianettore Gassani, che è il presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e quindi conosce la materia perché la vede ogni giorno nelle aule del tribunale, sia esattamente il luogo adatto perché tutto questo possa mantenersi. Gianettore, ci siamo lasciati un istante fa parlando dell'irruzione di sistemi di rilevamento elettronico nell'armonia familiare. Sembra una banalità, sembra un superfluo adagiarsi su quella che è la tecnologia e via dicendo, però è un grande segnale. Il famoso economista francese Jacques Attali, lo cito spesso, parla di un modello in crisi anche dal punto di vista dell'organizzazione sociale. Dice: guardate come voi siete plurimi nelle vostre relazioni attraverso i social network, potete gestire migliaia di amici, migliaia di relazioni, migliaia di palpitazioni, migliaia di segnalazioni quotidiane del vostro stato d'animo. Guardate che anche la società lentamente trasporterà questo modello sul piano concreto. Se oggi potete giocare nell'ambiguità di averci soltanto un marito, una moglie e una casa, ma allo stesso tempo avere almeno 3 amicizie particolari, anche semplicemente su un piano virtuale, 2 anche su un piano concreto e altre 50 su un piano più superficiale, prima o poi questo modello diventerà anche reale. È possibile questo secondo te? Ma l'avvento delle nuove tecnologie ha creato la cosiddetta infedeltà tecnologicamente assistita. E questo è normale. Quindi significa che c'era un bisogno dietro, c'era una necessità. È stata aperta praticamente. Fornisce un servizio a una necessità. Assolutamente, è stata spalancata la porta. È stata spalancata, prima si scappava dalla finestra, si è spalancato tutto, è cambiato tutto e fondamentalmente ormai non esiste più la piazza, il ritrovo, la strada, la palestra, il club. Oggi basta accendere un computer e accedere ad un social network e immediatamente si interagisce anche con persone lontane. E la cosa che più fa pensare è che non è vero che si tratta di relazioni virtuali, almeno in un 30-40% dei casi, lo vediamo, lo scopriamo nei processi, diventano relazioni vere, reali. Addirittura si sono creati coppie importanti, matrimoni, si sono sfasciati i matrimoni perché si sono create altre unioni, si sono ritrovati gli ex di 20 anni prima. È una continua ricerca di persone, di contatti, perché fondamentalmente ciò che emerge è la solitudine. Quando tu chiedi a una persona: ma come mai dopo 30 anni tu hai messo al mondo due figli, avevi finito di pagare il mutuo della casa? La risposta è sempre la stessa: mi sento solo, non riesco più a esprimermi in questo contesto familiare, in questo clan familiare, cerco altrove. Ed è normale che il social network è indubbiamente il terreno più fertile per questo tipo di nuove relazioni. Quanto è sviluppato il fenomeno che avevi accennato te in prima parte di questa trasmissione, di recuperi tardivi nelle coppie del proprio desiderio di autonomia, di realizzazione di se stessi? Perché un altro dei paradossi che abbiamo spesso cavalcato, ma delle ipocrisie allo stesso tempo, è quello: beh, in fondo la famiglia fa sì che quando sarai anziano non sarai più solo, di fronte allo spettro della solitudine la gente si sposa, avrai qualcuno a fianco nel momento in cui ti sentirai più solo. Ma è sempre ancora così? Ma dovrebbe essere così. In effetti ci si sposa per avere una sorta di garanzia di prosecuzione di vita in un contesto. Non è più così. Non è più così perché ormai la metà delle coppie finisce in tribunale, il 20% di queste coppie sono proprio quelle coppie che dovrebbero iniziare ad aiutarsi. Dopo 30-40 anni di matrimonio uno si aspetta dal marito o dalla moglie un'assistenza, anche proprio quasi infermieristica. Non c'è. Perché magari il marito scappa con la badante, la moglie non ce la fa più di sopportare il marito e si arriva in tribunale. Per cui non c'è alcuna certezza. Oggi chi affronta il percorso matrimoniale, ma comunque il percorso della vita di coppia, sa perfettamente che può finire da un momento all'altro. Non si può investire più come si faceva una volta, perché in Italia il divorzio è passato soltanto nel 1970. Perché non, secondo me con è una legge delle guerre di piazza, poi sì, perché poi nel 74 ci fu il famoso referendum che voleva spazzarlo via. Perché probabilmente forse è una legge economica. Se questo paese riesce a mantenere in vita il matrimonio a qualunque costo, riesce a farcela. Nel momento in cui gli italiani ragioneranno come i tedeschi, come gli inglesi, diventeranno altro volta un paese povero. Secondo me la ragione di fondo è questa, a parte ovviamente le battute e l'incidenza della Chiesa e della religione. Ma non dimentichiamo che siamo stati l'ultimo paese, anzi il penultimo paese d'Europa dopo Malta, a introdurre il divorzio. Cioè la famiglia doveva garantire assistenza per tutta la vita, mutuo soccorso, comuni risparmi, perché era l'unico modo per andare avanti. Vediamo, visto che siamo vicini alla conclusione, negli ultimi 5-6 minuti, cercare di dare qualche punto su quelli che sono i temi secondo te che andrebbero toccati. In Italia si è parlato tanto di coppie di fatto, di famiglie di fatto, poi di Pax, poi di coppie omosessuali. Sembrano questi che erano i veri problemi. Quanto è stato fatto realmente dagli ultimi uomini di governo in questa direzione? Quanto si sta muovendo veramente, al di là delle dichiarazioni di intento, di principio? Non è stato fatto nulla. Noi abbiamo finalmente tolto l'orrenda discriminazione da figli naturali e figli legittimi soltanto nel dicembre del 2012, però ci siamo dimenticati dei genitori dei figli nati fuori dal matrimonio, che sono fuori dal codice, bussano alla porta dei diritti, le coppie di fatto non sono riconosciute. Cioè i figli di fatto hanno ormai lo stesso diritto che i figli nati nell'alveo dell'istituzione, ma le coppie però di fatto fuori non esistono, genitori fuori, e questa è una cosa che francamente non ci fa onore, perché in tutta Europa, in tutto l'Occidente ormai esiste una tutela anche per le coppie di fatto. Fondamentalmente dopo anni e anni di convivenza si mettono al mondo figli, si ha una struttura sovrapponibile a quella delle coppie e degli sposati, dobbiamo riconoscere dei diritti fondamentali. Per cui succede che il convivente, se l'altro viene meno, non ha garanzie, a meno che non faccia i cosiddetti patti di convivenza, che non sono certamente un monopolio dei notai. Ecco, su questo tempo fa è uscita una grande notizia che sembrava che sconvolgesse tutto quello che noi avevamo pensato di incrollabile, i notai dicono a un certo punto: noi facciamo i patti matrimoniali. Ma cosa li facciamo anche noi avvocati? Ma mi spieghi esattamente cosa c'è detto questa notizia? Ma secondo me non c'è una notizia. I notai hanno ritenuto di dare, di offrire un loro contributo per questi patti di convivenza, atteso che mancano delle norme di tutela, ma lo possono fare anche gli avvocati. Attenzione ai monopoli, sono molto preoccupato, credo anche l'avvocatura dovrebbe farsi sentire da questo punto di vista, perché anche gli avvocati possono fare i patti di convivenza, quindi non è assolutamente... Anche i commercialisti? Anche i commercialisti, ma lo possono fare anche le parti... Il patto di convivenza in cosa consiste? Si stabiliscono delle regole anche su un eventuale mantenimento. Però i patti prematrimoniali sono proibiti la legge. I patti prematrimoniali riguardano coloro i quali vogliono contrarre matrimonio. In Italia non sono consentiti, purtroppo, perché almeno come possibilità, come opzione, dovrebbero essere garantiti, come succede altrove. I patti di convivenza sono dei veri e propri contratti. Cioè io e una persona decidiamo, stiamo insieme, facciamo una scrittura privata. Sì. La casa, chi va, le spese, per la successione valgono tutto. È un contrattino, come questo contratto. Non si possono fare patti successori. Ci può essere un testamento. Ecco, si può fare un testamento nei confronti del compagno o della compagna, ma sappiamo perfettamente che poi esistono delle regole precise per quanto riguarda i diritti successori. È robetta che si inserisce nelle maglie di una legge molto stretta, che alla fine serve a poca roba. Quando esiste un patto di convivenza, perché non esiste una legge, siamo un paese di serie B. Dovrebbe esistere delle norme base a tutela dei conviventi, soprattutto quando ci sono stati messi al mondo figli, perché non è possibile che sia la giurisprudenza a macchia di leopardo ogni tanto a tirare fuori qualche principio per tutelare. I patti di convivenza non è il surrogato della legalizzazione, no, della coppia rifatta. È la dimostrazione del fallimento del sistema. Perché dovrebbe esserci delle regole codificate minime a garanzia di milioni di persone. Io insomma non posso concepire che dopo 30 anni un uomo possa mettere alla porta la propria convivente o viceversa, senza alcuna garanzia di un mantenimento, di un sussidio, nel principio della solidarietà. E questa situazione va assolutamente affrontata. Purtroppo si parlava di Pax e di Dico, ma dopo 15 giorni sparita dall'agenda politica. In nessun rapporto con le persone, un dipendente non può essere cacciato senza una giusta ragione, e poi va agli avvocati, va dai sindacati. Un convivente può essere cacciato. Sì, messo sotto i ponti, senza alcuna possibilità. Allora siamo un paese in un binario morto, un paese che non ha niente a che vedere con la nuova cultura europea, e quindi credo che ci sono molte riforme da fare nel nostro paese per essere veramente un paese civile e degno di stare in Europa. Ma il principio più incrollabile qual è? Che il matrimonio sia comunque, dopo il concordato, un'istituzione incrollabile e intangibile. Quindi se vuoi comunque interrompere questo matrimonio, devi essere messo alla prova, ci devi pensare prima, perché stai facendo qualcosa di molto grave. Se no sarebbe più semplice. Il matrimonio è comunque un'importantissima istituzione, certo, ma se tu vuoi interromperlo, puoi interromperlo. Se vuoi interrompere il matrimonio, poi devi pagare un caro prezzo. In Italia devi fare 3 anni di separazione. Ecco, ma perché secondo te c'è tutto questo tempo da attendere? Perché devi ripensarci. Perché noi viviamo in un paese paternalista. Un paese che si è arrogato il diritto di imporre un tempo di riflessione ai propri consociati su questioni che riguardano le loro questioni morali e etiche. E credo che il divorzio breve, questo progetto di legge, sia soltanto un compromesso all'italiana, perché i principi o sono giusti o sono sbagliati. Per me è sbagliato aspettare 3 anni, è sbagliato aspettare anche 3 minuti. Lo Stato non può incidere nelle coscienze delle persone. Nel momento in cui lo fa, vuol dire che il nostro paese è un paese arretrato, perché negli altri paesi la separazione al massimo è facoltativa, ma se voglio divorziare non devo chiedere il permesso e non devo seguire un percorso di tempo che sia 1 anno, 2 o 3, non è importante. Siamo arrivati alla conclusione con Gianetto Regassani. Non era nostra intenzione rovinare le feste a nessuno, però dare un piccolo, se volete leggero, se volete stimolante, motivo di riflessione su ciò che noi consideriamo incrollabile, immutabile, e su ciò che per molti noi anche origine di ansia, di agitazione, di estrema angustia, non soltanto legata alla vita matrimoniale, ma nel più ampio spettro di una vita familiare, che può essere sì qualcosa di grande conforto, di grande gioia, di grande serenità, di grande equilibrio, ma può essere anche la peggior trappola per la nostra serenità. Alla prossima!